Una buona serata, Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, in compagnia di Max Macchia per un 451 frammenti sonori. Uno dei due, perché l'altro non c'è, tornerà probabilmente domenica prossima, insomma, tornerà, ma siamo sempre, come dire, presenti, onnipresenti attraverso il blog 451frammentisonori.noblogs.org, quindi insomma, se avete la mancanza, insomma, sentite la mancanza di Eliseo, potete tranquillamente ascoltarlo sul blog. E questa sera in mia compagnia, invece, in compagnia di Max Macchia, proprio, non solo, tra l'altro saluto anche Jerry che sta attingendo niente per il momento, si sta accingendo appunto a lasciare la radio, lo salutiamo caldamente, poi magari vi faremo anche una sorpresina nelle prossime settimane o forse anche la prossima, magari con qualche trasmissione un po' speciale, vedremo un po' di trattare delle cose che comunque riguardano sicuramente tanto Jerry, ma non solo, anche me poi di riflesso, e chissà quanti altri appassionati magari di certe atmosfere vicine, insomma, fine 70 e primi 80. Stasera primitivi di nuova sensibilità per 451 frammenti sonori, ovvero come trattare una faccenda che poi più di una volta attraversa la trasmissione, il primitivismo, un primitivismo chiaramente a forte caratura avant, come si unisce il primitivismo all'avanguardia, si unisce con un senso nuovo, con una nuova sensibilità, appunto come abbiamo titolato questa sera la trasmissione, primitivi di nuova sensibilità, tra l'altro in chiaro riferimento anche agli storici futuristi, i primi periodi si dichiararono primitivi di nuova sensibilità proprio nella ricerca di una sorta di tabula rasa, di azzeramento culturale per ritrovare aggressività creativa, aggressività artistica dentro una canalizzazione che non è soltanto quella dello stereotipo e quello dell'accademia, anzi va fuori da questo. Chiaramente sono passati insomma 100 anni, primitivi di nuova sensibilità attuali per certi versi non si occupano neanche più di accademia, seppur in senso antagonista, si trovano proprio direttamente ai margini, come buona parte delle musiche attuali legate alle sperimentazioni diciamo al mondo dell'avanguardia, a questo per una frammentazione che comunque riguarda tutto il mondo musicale, quello che insomma prima si poteva considerare mercato, che per tanti versi lo è ancora, ma sicuramente decisamente anche differente da quello che già fino a qualche anno fa si riconosceva come il mercato dei CD ad esempio, o tirando fuori insomma gli storici vinili o addirittura anche i tapes, che per certi versi sono anche tornati proprio anche con queste formazioni, e in questo senso insomma una sorta di primitivismo, di suono brutalizzato, ma per tornare appunto a una sorta di purezza espressiva, non ovviamente ricercata in senso estetico, anzi c'è una sorta di ricerca di sporcizia, di combinare musicalità che hanno anche aspetti piuttosto brumosi e riescono a essere appunto sperimentali e stimolanti proprio per questo loro essere decisamente barbariche. Quindi continuando un po' la trasmissione anche della scorsa volta, che si fermava al traditional, avant traditional, in maniera curiosa e paradossale l'avevamo chiamata, tornando un po' prima, un po' più indietro a livello di attitudine, si ritrova proprio un piano primitivo che già comunque nella scorsa trasmissione di 451, ad esempio con Sun City Girl, tanto per citarne uno, sicuramente insomma avevamo X04, formazione molto interessante che si nutre, come dicevamo, di scorie provenienti da un lontanissimo passato tra elettronica analogica di ultimo stadio, di quasi una sorta di ricerca a ritroso per ritrovare un futuro dentro macchine sparse tra vari effetti analogici e circuit band che vengono creati appunto da queste formazioni per lo più americane, ovvero circuiti autocostruiti, quindi un'elettronica spartana che può ricordare per certi versi un immaginario alla Mad Max, ma in effetti poi anche tutto l'immaginario post-atomico e catastrofista passa da queste parti. Tante musiche che questa sera ascolteremo appunto si nutrono di queste cibarie piuttosto radioattive, sempre rimanendo in metafore atomiche, ma iniziando appunto con X04 per dare avvio al nostro primitivismo di nuova sensibilità, o primitivi senza per forza creare un ismo che forse non c'è e non vogliono neanche avere tutte le formazioni che questa sera passeremo, appunto ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo per tuffarci dentro questo mondo tra il bruto e l'incredibilmente creativo, astrazioni che ritornano poi alla terra attraverso effettismi e lacerazioni vari musicali. Thank you. Beh, alla ricerca un po' dei padri sonori, con un sospiro che ritorno in diretta, perché insomma dà sempre una certa emozione al sottoscritto passare i Chrome, storica formazione che forse si è storicizzata con il passare degli anni, visto che ebbero piuttosto sfortuna nel loro corso, insomma, storico nel vero senso della parola, quando si unirono nel 76 per il primo album Visitation, fino ad arrivare all'83, poi sciolta la storica formazione. Ci saranno altri Chrome, ma tutto diventerà molto più complesso e sicuramente si perderà quella spinta iniziale assolutamente straordinaria, quella di Damon Age e Elios Creed, appunto con la dipartita di Elios Creed dalla formazione, e poi purtroppo anche con la dipartita, ma finale, definitiva, di Damon Age, proprio dalla nostra terra, probabilmente partito per qualche strano pianeta, come amava lui definirsi, una sorta appunto di visitatore. Il primo disco, The Visitation, è proprio questo: si sentivano una sorta di marziani dentro un mondo musicale, non solo, visto che poi veramente vivevano ai margini di tutto, non soltanto in campo artistico, ma anche in termini problemi esistenziali. Così vi consiglio, se amate le storie decisamente nere, di leggere che cosa è successo a Damon Age. Sinceramente non ho molta voglia di raccontarvelo, e comunque insomma sì, documentatevi se vi piace il noir. Soprattutto rimane più che altro questa assoluta attitudine dentro Damon Age e Leos Creed, per musicalità che vanno a toccare estremi, sia in termini di astrazione sia in termini di deformazione sonora, una sorta di viatico assurdo e paradossale, assolutamente unico il loro, dove le psichedelie si fondevano alle musiche industriali, dove il kraut dei Faust e dei Can diventava una sorta di incubo definitivo, in questo senso la catastrofe immane dentro i suoni di Crom è sempre stata presente, ma in termini piuttosto beffardi, se l'industrial di Throbbing Gristle, di Cabaret Voltaire viveva, tra virgolette viveva, di un particolare catastrofismo e distopia negativa per quanto riguarda invece i Crom, questo diventava una sorta di mondo fantascientifico, una sorta di alterità marziana, sempre visitata e rivisitata dentro i loro lavori, che non erano mai uguali uno all'altro, tant'è che Crom in 7 anni di vita, quelli storici, veramente passò da musicalità molto vicine a una sorta di post psichedelia, ad esempio con Visitation, arrivando a un cyberpunk con Blood on the Moon e gli ultimi esperimenti prima che appunto si chiudesse la storica formazione dei Crom. E abbiamo messo loro non a caso, perché X04 ci tuffavano immediatamente, anche magari un po' troppo in maniera un po' troppo diretta, perdonatemi se ho iniziato la trasmissione così bruscamente, ma d'altronde insomma stasera vogliamo e siamo decisamente primitivi, uso il plurale maiestatis, non me lo meriterei, però permettetemelo, visto che poi, come dire, l'ombra del mio compagno di viaggio c'è sempre. Dopo X04, Factums che con il loro Primitive Future soundtrack si rifanno tanto all'Alien soundtrack di Crom e tanto alla tematica di questa sera. Se per molti versi si può riparlare di primitivismo, insomma legando a questi personaggi, dandoli insomma dei primitivi, e sicuramente anche per formazioni come Factums, che recupero proprio quell'attitudine di Crom e anche di altre formazioni che comunque non estreme quanto i tipi di San Francisco, Damon Age e Leos Creed, però sicuramente insomma spinti in termini sperimentali. Già alla fine degli anni 70 creavano atmosfere da incubo, con però un vitalismo che tante volte va a toccare l'assurdo per tribalismi o attitudini tribaloidi, quasi una sorta di tribalità impazzita dentro la grande metropoli. Per fare un riferimento che insomma vago ma che ci sta benissimo, per formazione tra l'altro straconosciuta, che hanno anche formalizzato e hanno pulito, quindi per questo forse stasera non ci sono dentro 451, ricordando insomma la storica formazione Talking Heads, che proprio di sonorità primitive riempivano i loro dischi, poi ripulendoli anche con la grande cura e la grande intelligenza sonora di Brian Eno, riuscirono anche a formare e deformare anche per molti aspetti il mondo del pop dei primi anni 80, con invece X04, Factums e i grandi avi nonnetti spericolati come i Crom, si va dentro quella materia primitiva che vuole rimanere tale, e Avant perché si sposta a tale punto di aberrazione sonora, di azzeramento di matrice appunto musicale, che si sposta decisamente, quasi naturalmente, se non fosse un artificio linciaggio voluto e anche decisamente violento, si sposa appunto e si sposta verso sonorità assolutamente altere. E parlando di altri grandi eroi della vitalità decisamente sperimentale e mai domi, Alan Vega è sicuramente uno che alla fine degli anni 70, ma già prima con i primissimi esperimenti dei Suicide, portava all'estremo quell'urbanità densa anche di tribalità, e New York vive di questi paradossi incredibili, tanto avanzata tecnologicamente, tanto tribaloide poi per alcune aspetti che ritornano. Per esempio si potrebbe citare, visto che stasera stiamo andando veramente di esempi, ad esempio tutta la faccenda del piercing e di certe neotribalismi poi passati soprattutto nella generazione rave degli anni 90 e che prima invece erano appannaggio di pochi, diciamo, esagitati. Alan Vega che torna con un altro personaggio di quelli che hanno fatto la storia della musica brutista, Mark Hurtado, che dovreste conoscere, perlomeno ne abbiamo parlato poche settimane fa proprio qua a 451 con la sua storica formazione Tandon, straordinari concretisti tra materia bruta e astrazioni assolutamente geniali. Hurtado e Vega, quindi il loro ultimissimo disco War, la loro idea di battaglia campale, quindi che diventa guerra, una sorta di interventismo anche musicale, tanto per citare i nostri futuristi che appunto danno un po' il titolo questa sera 451, Primitivi di nuova sensibilità. Oh! Marco Hurtado insieme a Alan Vega per questo spettacolare lavoro dei due grandi che avevano già tra l'altro lavorato insieme come tandon per Marco Hurtado qua in solitaria e non con il suo compagno di viaggio storico secondo tandon, e un Alan Vega decisamente ispirato già Station di un paio d'anni fa, veramente la diceva lunga sul periodo di forma di Alan Vega più che di Martin Rev, che invece è un po' più insomma in ombra rispetto invece alla vulcanica creatività di Alan Vega, anche questa grande violenza sonora che è sempre tremendamente nello stesso tempo meravigliosamente creativa e anche affascinante, come non essere colpiti e immediatamente presi per la gola e per le orecchie a questo punto ascoltando il grande vecchio Alan Vega, con una, sempre in gamba Mark Hurtado che dal come dire dall'underground più profondo con Ethan Don sta sempre uscendo di più rispetto appunto a un iter musicale che l'ha visto sempre veramente ai confini per un primitivismo musicale espresso sia in termini di attitudine live sia in termini di sperimentazione che per tanti versi l'ha portato verso anche il concretismo, ma anche forme insomma di astrazione e decisamente anche raffinata, se questa sera il termine ci può star bene. Se con Chrome abbiamo toccato i lidi di una un'industria marziana con Hurtado e Vega, le energie in interventiste musicali appunto di Ward, al loro Sniper, con Savage Republic invece andiamo a trattare quello che è stato il un rock di timbro in industriale, tribaloide, ma una tribalità che passa attraverso l'immaginario western di un Ennio Morricone o di Shadows, di una società o per meglio dire un immaginario americano legato a un'epicità tutta inventata dentro appunto cavalcate vicine al noise, che anch'esse hanno dato grandi speranze poi attraverso gli anni 90 sia per certo post rock e per certo neo noise, che sentiremo dopo la prima parte appunto di 451, dopo il giornale radio. E appunto ci sarà a cavallo di Savage Republic una formazione che per tanti versi si rifà appunto a questi storici ancora vivi e ancora con buone carte insomma che si possono giocare, che se le giocano poi tutto sommato. Savage Republic con lavori storici nella prima metà degli anni 80, andiamo a prendere proprio Tragic Fagora, bellissimo disco, notevolissimo per impeto musicale, per un senso appunto decisamente astrattizzante, seppur dentro grande anche rabbia tribale, insomma un quacervo veramente di attitudini che hanno fatto grande questa formazione, e non solo questa, perché hanno dato veramente semi e ne hanno cosparso veramente buona parte del rock estremo. Savage Republic.